Grazie Rosso, ma noi ci risentiamo domani per parlare delle altre due filiere un po' sfiziose, c'è dentro anche tessuti sì. da sala operatoria, mamma mia, chissà che cosa ci avete fatto. A domani.